durante i mesi di lockdown, ma anche dopo. Questa città ha dato dimostrazione anche in questa emergenza di essere piena di reti sociali, di reti civiche, di comitati di cittadini, di associazioni che si sono attivate. Ci sono state delle cose molto forti, per esempio pensiamo agli anziani, ai volontari più anziani, ai luoghi, ai centri sociali per gli anziani, a luoghi della cultura che non potevano essere frequentati, per cui abbiamo dovuto reinventarsi. E le reti di mutualismo che abbiamo mappato hanno comunque trovato dei modi di pensare a chi rischiava di rimanere indietro, alle famiglie con pochi device o addirittura senza nessun supporto tecnologico, agli anziani da soli, alle persone con handicap, alle persone che non avevano provviste, per cui insomma abbiamo visto in tutta la città molte forme di attivazione. E non è una sensazione la mia, perché nel mese di giugno, insieme ai quartieri e all'ufficio della cittadinanza attiva dell'amministrazione, come Fondazione Innovazione Urbana abbiamo realizzato 280 interviste telefoniche o via call. Abbiamo chiamato quindi tutte le realtà associative e di comunità attive nella città di Bologna, con un'intervista concordata con alcuni ricercatori dell'università, e ne abbiamo ricavato un report che abbiamo condiviso con i presidenti di quartiere e con l'amministrazione, che presentiamo giusto venerdì con alcune delle comunità insomma più attive di Bologna. Insieme, oltre a questo report, insieme ai partner del festival ActionAid e Legambiente, abbiamo rifatto un'altra indagine in questi ultimi 20 giorni. Abbiamo selezionato 20 realtà bolognesi e 15 nazionali, andandole ad intervistare a 3 mesi dall'emergenza, quindi andando a capire cosa sta succedendo adesso, dopo la fase più acuta dell'emergenza. Queste realtà, come dire, sono varie fra loro, c'è chi si relaziona con le istituzioni e chi invece procede, no, in autonomia. Ma in realtà dobbiamo avere uno sguardo molto ampio, andiamo dalle parrocchie al centro islamico della Croce del Biacco, alle reti come Don Panic, alle reti o dai comitati dei cittadini in via Girasoli, quindi dobbiamo avere uno sguardo molto, come posso dire, aperto alle diversità che questa città genera. Però devo dire che in forme più o meno insomma allineate c'è sempre stato un rapporto con le istituzioni, che non vuol dire aver chiesto il permesso, perché ci sono state per esempio le staffette alimentari, partigiani alimentari non hanno avuto patti di collaborazione, accordi con l'amministrazione, però comunque il quartiere era informato, comunque c'era una sorta, come posso dire, di allineamento. Certo, vogliamo molto di più, è necessario lavorare per essere più in sinergia affinché le istituzioni aiutino con risorse, spazi e comunicazioni le realtà che vogliono avviare collaborazione, però insomma devo dire che più o meno questo è un contesto che è abbastanza particolare, lo dico con cognizione di causa. Dalle interviste che abbiamo fatto a livello nazionale emerge chiaramente che alcuni territori non hanno avuto nessuna relazione con l'amministrazione, è bene che ce lo diciamo, ci sono realtà con delle linee politiche di un certo tipo che non prevedono nessun contatto con le reti mutualistiche che si sono attivate durante l'emergenza, certamente non è questo territorio a cui mi riferisco. Possiamo dire quindi che in alcuni contesti queste reti, queste forme di mutualismo hanno sopperito, anche hanno raggiunto persone che non venivano raggiunte dalle istituzioni? Assolutamente sì, questo avviene normalmente, nel senso è proprio un principio della Costituzione italiana, il terzo settore e i gruppi informali in maniera anche autonoma concorrono alle istituzioni per rispondere ai bisogni. Il problema non è tanto questo, il problema è quando lo fanno a prescindere dalle istituzioni o contro le istituzioni, in cui allora lì ci dobbiamo un minimo preoccupare, ma che il terzo settore e tutta questa grande energia civica caratterizzante di questa città possa concorrere a rispondere dei bisogni in cui insomma le istituzioni fanno fatica, sono più lente, sono più formalizzate, credo che sia un fatto abbastanza evidente e che va anche rinforzato. Vista queste esperienze preziose, ci sono dei modi per poterle valorizzare ancora di più? Sicuramente servono risorse, competenze nuove. Come fondazione stiamo lavorando da tempo su questo, i quartieri si sono dotati di uffici edifici dedicati proprio alla rete di comunità, alla cura di comunità. Servono percorsi dedicati. Nei prossime settimane il Comune e la Fondazione lanceranno proprio un percorso di formazione che presenteremo al Festival, proprio dedicato a supportare le competenze delle reti mutualistiche. Non basta mai, è chiaro che stiamo parlando di una cosa che è in movimento, che genera tipi di organizzazioni collaborative, orizzontali, che alla Corticella hanno una forma e a Casteldevole ne hanno un'altra e in Piazza Verdi un'altra ancora. Quindi si tratta davvero di avere una città che sa cambiare a seconda dei contesti. Compito dell'amministrazione, insomma, o della politica è quello di capire che il mondo è cambiato e questa emergenza ha accelerato alcuni processi che erano già evidenti prima e che serve un nuovo protagonismo del pubblico, non per chiudere e formalizzare tutte le pratiche di mutualismo, ma per riconoscerle e rinforzarle nella essenza anche proprio civica, quindi indipendente.